mi ragioni, onor che parli, voi col fatal gustone il mio coraggio invitate al cimento, nel più bel raggio promettete al mio crine vostra luce. Ma se poi fisso miro con gli occhi nel pensiero alla mia bella e vedo il suo perino, amore di pietà, l'inviti io seguo. Un Roger, menzognera, dunque la fama fu di tua incostanza. Di incostanza che parli? Fuggere i primi desiati nacci dell'amorosa Alcina, spegner nel cuore che prima ardeo le facci. Si fuggono a ragione nacci d'onesti e spengonsi a doveri impuri faci. Tal che dunque li è vero che se prima tuo errore poscia si odore, costanzi allora.